Deliveration, liberation sulla drum station. Beatmaker raggio rime con la back injection. No rejection, no flakes. We will show you how little take to make a creamy bit on a lyrical cake. For the sake of a good and witty hip hop, we'll make an effort to build it over the top. E se un flop sarà, ne varrà la pena e ci darà la facoltà dell'ubiquità. Frena, dimoreremo nella diversità di ciò che avremo, restituiremo metà. Divoreremo pezzi di costa, faremo cose a caso apposta, ma casa nostra, musica senza sosta. Sfondo una porta già aperta, ma che importa, tanto conta che ci si diverta. Semineremo rime che mireranno lo stile, semineremo le fondamenta della società civile. Sapremo che ci sarà ostile, perché non ci accontentiamo della libertà senile che offre. Vivendo in seno ad essa, lo spirito si stressa troppo e soffre, ma verso per verso si feconderà la vacuità del loro universo perverso. E se non ci si riesce, mi ricrescerà, ma si crescerà e mi va bene lo stesso. Colmeremo i vuoti della terra arida col mare salato dell'innatabilità del pensare, dell'umanamente, con l'ima, perfettamente con l'idea che prima venga l'istinto, e che se non lo si raffina non ne rimane altro che un niente indistinto. Yeah, yeah, yeah. Now you're listening to the sound, vibration all around your time. Stop a moment,